se uno va a sollecitare quel punto, automaticamente capisce, togliendo il piercing, che quel punto non è più sollecitato e logicamente si calma la patologia. Come si dice, un benefico sollievo, eh? Un benefico sollievo, assolutamente. Essere e benessere. Ci siamo, è arrivata la nostra amica per la pelle, una dermatologa per amica, la nostra dottoressa Riccarda Serri, presidente Skineco. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Senta dottoressa, mi tolga un po' una curiosità. Io seguo di solito tutti i suoi consigli e sono molto contenta perché la mia pelle è bella protetta. E così molte delle nostre amiche che ci stanno scrivendo. Però io vedo che ci sono delle abbronzature che sembrano più belle delle altre. A me la mia piace in modo particolare, ma ci sono delle pelli che sembrano più luminose quando sono abbronzate. Altre pelli invece che con l'abbronzatura, magari con il passare dei giorni, quando l'abbronzatura diventa più intensa, si spengono un po'. Come mai? Ma in genere succede che più melanina viene prodotta, quindi più è alto il fototipo, più la pelle è scura e più si scurisce sotto stimolo solare, più è protetta e più rimane lucida. Lei, Nicoletta, ha una bella pelle scura che si abbronza bene, ci credo che diventa luminosa. Invece le persone che producono meno melanina, le persone che hanno un fototipo più basso, hanno una pelle che mette in atto un altro sistema difensivo. Dal momento che quello della melanina è deficitario e addirittura spesso viene prodotta una melanina un po' pazza, un po' imperfetta, che si chiama feomelanina, ecco che la pelle si spessisce per proteggersi, produce più strato corneo con azione protettiva. Più è alto lo strato corneo, più è spesso, ed ecco che la pelle diventa più opaca. Per cui in genere chi produce meno melanina sotto stimolo solare ha una pelle che tende a essere opaca. Però l'ispessimento corneo viene anche a chi, pur essendo scuro di pelle, pur producendo tanta melanina, sta poi troppe ore al sole, alle tipiche lucertole, certo, che poi si fanno venire, oltre che a essere comportarsi come lucertola, si fanno venire anche proprio una pelle, una pelle da lucertola. Senta dottoressa, io per le persone che ci stanno seguendo e sono ancora in vacanza, diamo dei consigli per mantenere l'abbronzatura bella dorata e soprattutto per nutrire bene la pelle, perché il rischio è che ci abbronziamo e poi dopo qualche giorno, magari dopo una settimana, vediamo che la nostra abbronzatura tende ad andarsene, la pelle diventa secca, ci spegliamo. Noi diciamo così, non so come dite voi dermatologi, ma l'effetto lei l'ha ben presente. Beh, se lei ci pensa, il peeling in fondo è una spellatura, per cui diciamo esattamente la stessa cosa, diciamo che ci esfoliamo. Certo, il segreto è un segreto di Pulcinella. Bisogna abbronzarsi lentamente, esponendosi gradualmente. Questo è il segreto per avere un'abbronzatura durevole, non dannosa e che poi non portando insulti alla pelle, non portando infiammazioni, non portando a un'eccessiva produzione di radicali liberi. Un po' di radicali sotto stimolo solare vengono prodotti, però se l'abbronzatura è molto graduale e soprattutto nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, ecco che possiamo sfoggiare un bel colore sano e durevole senza rovinare la pelle. Quello che bisogna tassativamente evitare è di stare troppe ore consecutive al sole, soprattutto i primi giorni, ma anche nei giorni seguenti, e di stare al sole in quegli orari centrali della giornata in cui il sole picchia troppo. Allora, dottoressa Serri, come si lava e come si idrata, come si nutre una pelle abbronzata? Dobbiamo cambiare qualcosa rispetto agli altri mesi dell'anno in cui la nostra pelle è pallidina? Bisogna scegliere delle molecole antiradicali liberi. Il nutrimento deve essere invece relativo sia a come è la nostra pelle, se è più secca, se è più grassa, se è più seborroica, sia al clima, perché se il clima è caldo umido e la pelle tende a essere un po' grassa, il nutrimento è meglio che sia dato sotto forma di gel, sotto forma di un'acqua idratante, non sotto forma di una crema o un'emulsione che può essere troppo pesante in questo momento. Per cui bisogna scegliere un gel gel o un'acqua o un'emulsione più o meno carica di lipidi a seconda del clima e a seconda della propria pelle. È meglio scegliere prodotti cosmetici ricchi di fattori di protezione cellulare o antiradicali liberi come la vitamina C, la vitamina E, la vitamina B5, fattori resveratrolo, acido alfa-lipoico, enzima Q10, insomma sostanze che aiutano a proteggere le cellule della pelle e il nucleo delle cellule della pelle, e poi oli vegetali che siano restitutivi, per esempio aggiungere alla propria pelle qualche goccia di olio di argan puro, olio di rosa moscheta o olio di germe di grano può essere molto utile. Una goduria. Altrettanto utile è assumere per bocca le cosiddette fotoprotezioni attive o comunque antiossidanti, antiradicali liberi, omega 3, omega 6, mangiare molto pesce, olio di oliva, frutta e verdura di stagione. Anche quando siamo già abbronzati. Questo mi piace sottolinearlo, dottoressa Serri, perché noi ci affanniamo, siamo molto attenti a preparare la pelle prima di esporla al sole, e noi facciamo tante puntate, arrivano tante telefonate, cosa devo mangiare, cosa devo prendere, gli integratori, la crema eccetera. Quando poi siamo al sole, ok, tutto è fatto. Basta. Ma è un po' come la dieta dimagrante. Tutti pensano a dimagrire, ma poi la cosa più importante è mantenersi magri. Per cui un certo tipo di regime di skin care, di routine per la propria pelle sano, bisogna mantenerlo sempre per mantenere bene la pelle, esattamente come bisogna sempre mangiare in un certo modo per mantenere il peso forma una volta che è stato raggiunto. Dottoressa, vogliamo parlare del viso. La bronzatura ci regala sicuramente quell'aspetto più sano, l'aspetto vacanziero, ci rende anche più belli, o noi ci sentiamo più belli, perché anche quando indossiamo un abito siamo, no? Ci sentiamo anche vestite da, sì, da questo colore dorato. Ma la pelle del viso in modo particolare, che è quella che noi abbiamo più sott'occhio, è un po' si sciupa, diciamo la verità, se non abbiamo tutte le attenzioni che lei gentilmente così ci suggerisce, beh, insomma, la pelle si segna, non c'è verso. La bronzatura non è altro che una difesa della pelle, la produzione di melanina, una difesa nei confronti dei raggi solari. Un eccesso di abbronzatura anno dopo anno comunque porta a un invecchiamento della pelle, a un precoce invecchiamento, la pelle perde elasticità, spuntano i vasellini, si dilatano i pori, si formano rughe, grinzette, le pieghe mimiche si accentuano. Essendo la pelle meno elastica, ecco che tutte le pieghe che si fanno quando si parla, quando si vive, insomma, si tendono a fissare. Parentesi, chi è arrabbiato tende ad avere infatti delle rughe particolarmente ostiche, chi è più sorridente e più sereno tende ad avere delle rughe molto più serene, chiusa la parentesi. Quindi è molto importante esporsi poco. Come dermatologa io posso dire, certo, la bronzatura è bella, il colorito è bello, però bisogna stare attenti e ricordarsi che la bronzatura va via, ma i danni restano, per cui per limitare i danni e avere il colore sempre proteggersi, non stare al sole tra le 11:30 e le 3:30-4, o comunque mettersi un bel cappello, stare preferenzialmente all'ombra e mettere degli occhiali da sole, anche loro che abbiano un bel fattore di protezione di filtro da UVB e UVA, perché anche gli occhi si danneggiano, e usare delle protezioni solari. Nelle prime ore del mattino e nelle ore della sera esporsi pure, ma applicando sostanze antiradicali liberi. Si torna dalle vacanze, si può fare magari in ambulatorio qualche biorivitalizzazione, qualche trattamento restitutivo e ringiovanente. Ecco, questo è il ritorno dalle vacanze, è il momento ideale per fare questi trattamenti? Ma è il momento ideale se uno ne ha voglia. Diciamo, certo, che questi trattamenti non per il fatto che esistono sono obbligatori, certo, e non è che chi non li fa e non può brutto mantenere al meglio, certo, la pelle. Io ci tengo a sottolineare questo. Certo, fanno molto bene, però non è che sia obbligatorio farli per mantenere al meglio la pelle. Certamente le biorivitalizzazioni, per esempio, o bioregenerazioni consentono la immissione intradermica di sostanze particolarmente utili come amminoacidi, come acido ialuronico, che hanno una funzione restitutiva dopo gli stress rappresentati dall'estate. Certo. Dottoressa Serri, ci sentiamo la prossima settimana. A presto. Intanto la ringrazio. Anche noi ci sentiamo invece domani dopo il GR delle 11. Io vi aspetto. Venite, non mancate. Buonissima giornata da Nicoletta.